Domenica prossima torneranno i gazebo del Partito Democratico nelle piazze per le primarie che vedono una sfida tutta emiliana tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Per capire cosa dobbiamo aspettarci siamo al telefono con Davide Policastro di Utrend, che saluto, buongiorno. Buongiorno a tutti. La domanda nella formulazione è semplice, non so se nella risposta, cosa dobbiamo aspettarci? Se parli di risultati, chiaramente non è che mi possa spingere troppo a dire vince sicuramente qualcuno o qualcun altro, perché non vorrei gufare nessuno dei due candidati. Diciamo che da quello che sembra, dalle ricerche, sicuramente dai risultati dei circoli, Stefano Bonaccini in questo momento è abbastanza in vantaggio su Elly Schlein, e gli altri due candidati, di cui uno si è comunque anche di fatto ritirato dalla corsa, ovvero Gianni Cuperlo, invece chiaramente, ma si sapeva sin dall'inizio, lui e Paola De Micheli non avrebbero avuto nessuna speranza per competere. Sono primarie un po' strane, nel senso che rispetto a tutte le altre che si sono svolte, tendenzialmente sono passate molto in sordina, sono le primarie che hanno avuto meno interesse anche tra gli iscritti, un calo, se non sbaglio, una settimana scorsa era del 20% rispetto al voto, ai circoli che avevano votato per l'ultima elezione di Zingaretti, che non ha riscosso e non ha entusiasmato particolarmente neanche la popolazione, diciamo. Quindi si aspetta un'affluenza estremamente bassa, anche se oramai di affluenza estremamente bassa dovremmo essere abituati, ma solo pensare alle elezioni di inizio mese che hanno fatto record negativo di affluenza ad elezioni che erano generali, comunque parlo di quelle in Lombardia e nel Lazio. Qui invece abbiamo un problema che, appunto, tra l'altro è anche la grande incognita, è chi è che riuscirà a portare a votare chi, perché ci si aspetta una scarsa affluenza e magari con un po' di entrismo, tra virgolette, come si chiamava un tempo, di persone esterne, magari non necessariamente elettori del Partito Democratico. Questo potrebbe spostare in maniera abbastanza significativa il risultato finale delle elezioni. L'affluenza, diciamo, è una cosa che giocherebbe forse a vantaggio di Elly Schlein, perché votando anche i non iscritti è l'unica speranza che ha di poter agguantare Bonaccini. Ma non è stata in grado, a tuo avviso, di motivare le persone? In realtà ha fatto un buon lavoro, perché un profilo del genere anche solo qualche anno fa non avrebbe avuto nessuna possibilità di vincere. Penso ad esempio, per andare un po' indietro, Elly Schlein si avvicina molto come profilo alle vecchie mozioni del Partito Democratico, che di solito finivano terze, come ad esempio, non so, penso a Marino, penso a Civati, che tra l'altro col quale ha avuto anche parte di storia politica ormai parecchi anni fa insieme, e quindi ancora qualche anno fa un profilo del genere non avrebbe avuto nessuna speranza. Il fatto che si sia invece riuscita comunque ad imporre, a diventare una competitor comunque credibile, perché comunque sia è vero che il favorito al momento è Stefano Bonaccini, però lei ha qualche chance, qualche colpo lo può tirare per poter vincere, questo sicuramente ha fatto, e comunque un lavoro di entusiasmo, appunto, che comunque lei è una base, è riuscita a mobilitarla, a portarsela dietro, e contando che comunque un profilo che viene praticamente da fuori dal Partito Democratico, anche se sempre all'interno dell'area di sinistra, e comunque lei è stata la vice di Stefano Bonaccini in regione, comunque sia si parla appunto di un profilo esterno, per l'appunto, che quindi portare dentro persone dell'area di sinistra, quindi magari anche più motivate a votare, per portare a sinistra il Partito Democratico, potrebbero essere utili. Da questo punto di vista, paradossalmente, il fatto che il candidato contro è Stefano Bonaccini è probabilmente uno dei più grossi gap, uno dei più grossi suoi problemi, perché comunque si ha una storia politica e amministrativa Bonaccini che sicuramente non può essere definita eccessivamente riformista, o comunque che strizza l'occhio al centro, perché comunque si arriva nel presidente della regione Emilia Romagna, un politico ex PC modenese, quindi insomma sempre lì si torna. Ma al di là, insomma, delle primarie, di chi li vincerà, però poi il partito dal giorno dopo dovrà affrontare una crisi che si è, diciamo, ufficializzata con le elezioni politiche scorse, però insomma forse dura da tempo. Diciamo che uno delle certificazioni dell'enorme crisi che sta vivendo il Partito Democratico, perché senza mezzi termini è enorme, è proprio il fatto che queste primarie non stiano andando, non stiano entusiasmando anche al di fuori del Partito Democratico, perché uno dei classici trend sin dal 2006 oramai delle primarie, quando non c'era ancora neanche il Partito Democratico, era che le primarie diventavano il centro del dibattito politico per qualche settimana, e questo si rifletteva anche in una crescita del Partito Democratico. Questo a questo giro di fatto non si è verificato, anzi. E sì, il fatto che il partito sia in profonda crisi, una crisi che viene da molto prima del disastro, perché il Partito Democratico è stato un disastro, delle elezioni politiche di settembre scorso, sicuramente acuisce. E cosa dovranno fare il vincitore tra i due che si troverà finalmente a guidare il partito? Sarà una bella boccata da pelare, perché le prospettive possono essere o uno spostamento a sinistra, che però non so quanto possa essere rivitalizzato, però comunque sia, è proprio a livello dirigenziale che mi sembra che ci siano dei problemi, nel senso non tanto per competenze o capacità, ma diciamo che dovrebbero smettere di farsi la guerra e iniziare a lavorare più assieme di squadre. Questo dovrebbe poter aiutare poi il Partito Democratico a un percorso che comunque non durerà settimane, non durerà mesi, ma durerà anni, per poter poi tornare ad avere un certo tipo di credibilità, a prescindere dall'andamento politico sondaggistico di tutte le settimane. Io ti ringrazio. Grazie mille a voi. Buona giornata. Buona giornata, ciao.